214. Crema fritta prima. Amido grammi 100, zucchero grammi 30, burro grammi 20, latte decilitri 4, uova 2 intere, odore di scorzo di limone, sale una presa. Lavorate le uova con lo zucchero, poi aggiungete l'amido ridotto in polvere, la scorza di limone grattata, il latte versato a poco per volta e il burro. Mettete il composto al fuoco, rimestando continuamente, come fareste per una crema comune, e quando sarà condensato da non crescer più, gettate la presa di sale e versatelo in un vassoio sopra un asse, distendendolo alla grossezza di un dito. Tagliatelo a mandorle quando sarà ben ghiaccio. Doratelo con l'uovo e pan grattato, friggetelo nel lardo o nell'olio e servitelo caldo per contorno ad un altro fritto. 215. Crema fritta seconda. Farina grammi 100, zucchero grammi 20, uova intere numero 2, latte decilitri 5, odore di vaniglia o di scorza di limone. Per la cottura, tenetela sul fuoco finché la farina non abbia perduto il crudo. In quanto al resto, regolatevi come quella del numero precedente. Metà dose, mista ad altro fritto, potrà bastare per 4 o 5 persone. 216. Testicciola d'agnello. La testicciola d'agnello, quando non si voglia mangiar l'essa, io non conosco che due modi di cucinarla, fritta e in umido, vedi numero 321. Per friggerla tanto sola che col cervello, vedi la pastella per fritti di carne numero 157.